femminile, molto probabilmente stilizzato con una rana che esce dal cervello, insomma un rospo, qualcosa del genere, un fiore. Da dove hai trovato questa copertina? Di un artista giapponese, giusto? Intanto credo sia un camaleonte. Ah, è un camaleonte, hai ragione, io con gli animali ho qualche problema. Vabbè, anche questo è un'interpretazione. Ma questa copertina è perfetta perché... questo artista lavora molto sulle metamorfosi, appunto, quindi questa testa che si trasforma in altro, appunto in questo camaleonte, in un fiore, è un corpo umano che sconfina nella natura, in altro, come nel mio libro. Continuiamo ancora con queste atmosfere un po' insolite, un po' cupe per il cacciatore di libri. Dopo Viola di Grado passiamo ad un classico, un classicone, possiamo dire, dei romanzi del Novecento, La Metamorfosi di Franz Kafka. In questo caso parliamo dell'audiolibro, l'audiolibro che è prodotto da Good Mood Edizioni. Non si tratta semplicemente di una lettura del romanzo, ma è proprio l'opera che viene adattata, sceneggiata e recitata da alcuni attori. Ed è veramente un modo piacevole di leggere un libro in un modo diverso. Dopo una notte turbata da sogni inquieti, Grigor Samsa si svegliò trasformato in un enorme insetto. Era steso sul letto, sulla schiena, che sembrava un'armatura di metallo. E se sollevava di poco il capo, poteva vedere l'addome bombato, scuro, attraversato da fenditure arcuate. Dalle coperte spuntavano le gambe. Erano molte, ma tragicamente sottili. Grigor spostò gli occhi verso la finestra e si intristì quando si accorse che stava piovendo. Poteva sentire il suono provocato dalle gocce che colpivano il davanzale di lamiera. Meglio che mi rimetta a dormire. Quando mi sveglierò, tutto sarà a posto. Grigor pensava veramente che se avesse dormito ancora un po', si sarebbe risvegliato con le sue solite sembianze. Ma non poté farlo. Era là che rimuginava se alzarsi o meno, quando sentì bussare leggermente alla porta. Grigor, sono le 7:15. Non dovevi prendere il treno. Rispetto alla voce cristallina della madre, quella che uscì dalla gola di Grigor era impressionante. Era la sua, non c'è dubbio, ma aveva acquisito una nota fastidiosa, quasi un pigolio che distorceva le parole e che non gli permetteva di farsi comprendere bene. Avrebbe desiderato spiegare a sua madre cos'era accaduto. Lui però si guardò bene dal farlo e si congratulò con se stesso per avere chiuso a chiave le porte della sua stanza. Dormendo spesso fuori per lavoro, era diventata un'abitudine. Aveva deciso che si sarebbe alzato, vestito, e sarebbe andato a far colazione. Solo dopo avrebbe pensato a cosa fare. Non avrebbe risolto i suoi problemi restandosene a letto a lambiccarsi il cervello. Non fece troppa fatica a togliersi la coperta di dosso. Si gonfiò appena appena e la coperta cadde a terra. Ma ora? Il suo corpo era incredibilmente largo. Avrebbe dovuto spingersi con le mani, che però erano sparite. Al loro posto c'era quella fila di zampette che si muovevano in tutte le direzioni. Il campanello di casa suonò. Grigor pensò che qualcuno dell'ufficio fosse venuto in cerca di lui. La porta fu aperta dalla domestica e Grigor sentì distintamente la voce del procuratore. Lo so, ci siamo interrotti sul più bello, ma è così. Vi abbiamo giusto dato un assaggio dell'audiolibro Le Metamorfosi di Kafka. Se volete, naturalmente, potete leggerlo sia in cartaceo che attraverso l'audiolibro. Prima di chiudere, vi ricordo, visto che oggi abbiamo parlato di noir, che il Sole 24 Ore ha iniziato a pubblicare una collana di romanzi che si chiama Noir Italia. Sono 20 romanzi gialli di scrittori contemporanei, nei quali è protagonista una città. Quello che è uscito ieri, venerdì, in edicola, è di Valerio Varesi ed è il commissario Soneri, o Soneri, chiedo scusa Varesi ma non conosco la pronuncia di questo suo personaggio, e La mano di Dio. Tutti questi romanzi noir vengono venduti insieme al Sole 24 Ore il venerdì, ma si trovano poi comunque tranquillamente in edicola. Il prossimo, che uscirà il 26 luglio, è di Marco Vichi, e quindi la città è naturalmente Firenze, e si intitola Commissario Bordelli. Anche per oggi è tutto, vi ricordo Il cacciatore di libri, versione estate, ogni sabato alle 16 e la versione tradizionale sempre il sabato alle 6:45 e alle 21 dopo il GR. Buona lettura da Alessandra Tedesco.